Ci sono delle primarie di coalizione, lei esce dal PDL e aderisce alla lista di Montezemolo, al movimento di Montezemolo? Lei mi pone davanti delle alternative secche. Ma con la politica è fatta anche così. Dei gesuiti, vale il solito detto latino, concede parum, nega sepe, distingue sempre. Il discernimento dei gesuiti, mi faccia riflettere, sono cose che non si possono definire in pochi secondi al telefono in una situazione. Mi lasci riflettere. Ho capito. Faccio delle considerazioni. Meglio il Monti bis o le primarie del PDL? Beh, guardi, io sono o un candidato favorevole. Delle primarie del PDL. Sono molto favorevole al presidente Monti. Ripeto, ho dato 4 grandi medaglie d'oro, la massima onorificenza, come il cavaliere di Gran Croce per la Repubblica Italiana, la massima onorificenza cittadina. Io non capisco lei che aspetta da aderire al movimento di Montezemolo. Quattro persone, Martini, il cardinale, Montanelli, sappiamo chi è, Muti e Monti. Quindi puoi immaginare, cioè nel suo Pantheon c'è Monti, che ho per il mio collega di scuola. Nel suo Pantheon c'è Monti. Nel mio Pantheon c'è Monti assolutamente, anzi sono un grande ammiratore e sostenitore di come sta dunque dovrebbe governando fare il nostro paese. Un suo, come dire, un Monti bis sarebbe auspicabile. Ma credo che sia l'unica strada possibile al nostro paese il Monti bis. Ma lei che aspetta? Non ci sarà un'altra maggioranza, perché Parenzo, che aspetta il sindaco, il nostro amico sindaco, a uscire dal PDL, che ormai da una parte del PDL stanno usando l'aria, sta guardando. Ma ho capito, ma volte, scusi, no? La Russa che cosa le direbbe in questi casi? La Russa cosa le direbbe? Bravo sindaco, ma devi avere una sensibilità politica che noi abbiamo, ti insegniamo come devi fare, ti veniamo a prendere con un mezzo lince e ti portiamo sul campo di battaglia, poi c'è la Santanghetti che ti dice come devi comportarti, ma sii moderato, sempre moderato tu, noi siamo i cattivi e gli ostili, moderato, moderato. Però scusi Albertini, detto questo e scherzato su questa, ancora una volta su questa vicenda qui, ma mi sembra ormai evidente che il PDL, una parte consistente del PDL, almeno in Lombardia, vuole appoggiare Maroni, ma questo, cioè, adesso al di là delle frasi, dei tatticismi, questo è... bisogna prenderne atto, che aspetta lei a dire? Me saluto, come si dice in milanese? Vi saluto a tutti e vado con Montezemolo. Saluti. Ma questo l'ho già dichiarato, però devo cosa ha dichiarato? Mi lasci dire però, perché se lei mi interrompe ogni volta che cerco di rispondere con un'altra domanda, parla solo lei. Ho dichiarato che avrei restituito, poi non è necessario restituire, mi ha informato, non lo sapevo la tessera, prima, il senatore Mantovani, che non è necessario restituirla, basta non rinnovare. Quindi lei non la rinnoverà. Non nel momento in cui il PDL dovesse accedere a questa alleanza, singolare ipotesi di candidare un esponente di un altro partito, oltretutto minoritario, dopo averci dato 2 regioni, è chiaro che io non ci sto a questa linea. Però devo dire che oggi il ce l'ha detto, però abbiamo la sigla. A quello che abbiamo la sigla finale. Albertini, una cosa, ma Maroni, che è stato condannato per oltraggio a pubblico ufficiale, eccetera, è candidato alla presidenza della Lombardia, non fa un po' effetto? Sì, un po' fa effetto, ma poi non sappiamo che cosa succede per le vicende Finmeccanica, per esempio. Può darsi che lì arrivi qualcosa dopo. Anche per Maroni stesso, dice lei? Perché no? Perché no? Potrebbe essere. Dunque, no? Su Maroni c'è c'è anche questo. Dico che il passato ha visto alcune situazioni da cui mi pare sia uscito, però. E invece? Non è stato condannato solo. Sì, condannato, sì. Condannato, vabbè, allora insomma qualche macchiolina sulla veste candida ce l'ha anche lui. Anche lui.